diceva il fronte rispetto alla rattia. Che meglio ora porremmo in tabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, fissi a mio lupo. Scrivi. Che io scriva? Ma signora, scrivi, dico, e tutto il prendo su me stessa. Canzonetta sola.